Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Aruba 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati in questa puntata, abbiamo veramente tante cose da dire, allora iniziamo subito con alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. A partire da domenica sera le applicazioni di TikTok e WeChat, due applicazioni cinesi, scompariranno dagli app store americani. TikTok negli Stati Uniti ha 100.000.000 di utenti, mentre WeChat ne ha solo 19.000.000. Gli utenti di WeChat sono prevalentemente cinesi che vivono negli Stati Uniti, mentre TikTok ha milioni di americani, soprattutto teenager, che utilizzano questa app per realizzare e scambiarsi, condividere video. Entrambe queste applicazioni sono considerate dalla Casa Bianca una minaccia alla sicurezza nazionale perché i dati che raccolgono, e li raccolgono così come li raccolgono i social network americani, ma in questo caso vengono passati, secondo Washington, al Partito Comunista Cinese, che ne fa un modo per spiare il popolo americano, soprattutto creare profili comportamentali per poi farci chissà cosa. Intanto Google ha deciso di entrare in questo mercato e ha lanciato in India, dove TikTok è già vietata da alcune settimane, un nuovo servizio chiamato YouTube Shorts, brevi video adatti per il mobile. Il servizio verrà esteso ad altri mercati nei prossimi mesi. Non vi sfuggirà che, in tutto ciò, anche perché ne abbiamo parlato più volte, il profilo geopolitico è fondamentale e forse prevalente rispetto a quello tecnologico. Apple ha tenuto il proprio evento virtuale di fine estate in attesa di vedere i nuovi iPhone, ha presentato la nuova generazione di Apple Watch e ha introdotto il nuovo Watch SE, più economico, con un prezzo d'entrata che supera di poco i 300 euro. Sono stati rinnovati anche gli iPad, l'ottava generazione, a un prezzo d'entrata di 389 euro. Ci sono anche i nuovi iPad Air. E in entrambi i casi, sia per quanto riguarda gli orologi sia per quanto riguarda i tablet, questi sono due settori dove Apple ha un dominio pressoché assoluto, perché le quote di mercato, insomma, parlano molto chiaro. Devo dire che effettivamente, soprattutto sia per quanto riguarda gli Apple Watch ma anche per quanto riguarda i tablet, non è che ci siano così tanti concorrenti degni di nota. È stata svelata, a proposito di hardware, anche la disponibilità e i prezzi della nuova PlayStation. Anche qua c'è una battaglia pazzesca con Xbox. Sarà disponibile in Italia dal 19 novembre con il modello base a 399 euro, 100 euro in più per la versione con il lettore Ultra HD Blu-ray. Facebook ha lanciato anche in alcuni paesi europei, non c'è l'Italia per il momento, un centro informazioni sul climate change, il cambiamento climatico, per cercare di rispondere alle critiche di essere un amplificatore di notizie false e teorie che sostengono che il climate change non esista. Vedremo se avrà un impatto questo centro informazioni o sarà solo un modo per cercare di sopire le polemiche e dire però noi abbiamo fatto qualcosa. Poi in realtà sappiamo benissimo come funzionano e qual è il meccanismo dei social network. A tal proposito vi consiglio fortemente di guardare su Netflix The Social Dilemma, un documentario di 1:30 proprio sul funzionamento e sulle conseguenze dell'uso dei social network. Veniamo all'Italia, due notizie per concludere. La prima riguarda CDP Venture Capital, il fondo di investimento italiano della Cassa Depositi e Prestiti, che ha investito 4 milioni di euro in Evolus, una startup pugliese specializzata in progetti digitali che sfruttano molte delle tecnologie di cui parliamo spesso a 2024, ed è diventata nota anche per essere partner di Microsoft per la Mixed Reality con HoloLens 2. Ricordo anche che Evolus è stato anche il partner della Wurt, la tedesca Wurt, per la creazione del negozio automatico realizzato dalla ICAM. Ne abbiamo parlato proprio con ICAM in una puntata di 2024 di qualche mese fa. L'ultima notizia riguarda Tramundi, che ha annunciato di aver raccolto 1,5 milioni di euro. Per l'Italia, insomma, è sempre una cifra rilevante, importante. Tramundi è un tour operator digitale nato a febbraio del 2020, proprio prima della pandemia, che punta su viaggi pensati per i giovani professionisti abituati alla tecnologia. Un breve aggiornamento sul dossier Rete Unica. L'ultima a parlare è stata la commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, che, pur senza entrare nelle ipotesi di fusione tra TIM e Open Fiber, cioè su questo ha detto no comment, però in generale dice: si può immaginare che ci sia un unico venditore nazionale all'ingrosso, quello è immaginabile senza dubbio, ha detto la Vestager. La questione è se si tratta di un venditore all'ingrosso indipendente o se ha legami specifici verticalmente integrati con i venditori al dettaglio. Quella sarebbe una valutazione di concorrenza importante e quello sarebbe il nostro approccio generale, non importa a quale paese si riferisca. Lunedì ci sarà un incontro fra CDP, TIM e poi altri operatori importanti, cioè Vodafone, Wind 3 e Sky. I vertici degli operatori alternativi hanno però già più volte espresso la loro posizione, cioè che la maggioranza della rete deve essere in mano pubblica, che la rete deve essere gestita da una società neutrale che vende solo all'ingrosso, così che tutti gli operatori siano messi nelle stesse condizioni acquistando il prodotto da questo venditore all'ingrosso. Ancor più netto ed esplicito è un comunicato dell'Associazione Italiana Internet Provider che abbiamo ricevuto. In Italia, scrive l'associazione, ci sono più di 50 reti fisiche a livello locale. Un nuovo monopolio, oltre a vanificare l'unica liberalizzazione che più ha funzionato in Italia, distruggerebbe gli operatori di telecomunicazione locali e gli orientamenti della Commissione europea, che ha sempre favorito la competizione infrastrutturale, non possono essere stravolti in nome di un progetto irrealizzabile. Queste sono le parole dell'Associazione Italiana Internet Provider. C'è in effetti tra molti operatori il grosso timore che questo progetto salti e che gli investimenti si blocchino, o comunque che magari non salta ma sia così complicato, cioè che il governo si sia infilato in un dossier così complesso sia dal punto di vista tecnico, finanziario e anche regolamentare, che insomma gli investimenti si blocchino, e questo effettivamente è un rischio. In questo complicatissimo dossier c'è da registrare l'offerta che il fondo australiano Macquarie ha presentato ad Enel per il 50% di Open Fiber. La società è stata valutata in base a questo questa offerta fatta dal fondo australiano 7,3 miliardi di euro, una cifra molto importante, il che dimostra che Open Fiber in questi 4 anni di vita insomma ha fatto molto e ha realizzato una rete di grande valore. Soprattutto verranno premiate, immagino, da questa valutazione anche le possibilità future. Immaginiamo cosa possa valere una società del genere fra qualche anno, se oggi a pochi anni di vita vale 7,3 miliardi di euro. Adesso parliamo di Facebook, torneremo a parlare del dossier Rete Unica la prossima settimana. Adesso parliamo di Facebook, che ha tenuto il proprio evento di fine estate online. Adesso sono tutti eventi digitali. Parlando poco di realtà virtuale, sapete che Facebook aveva comprato Oculus e quindi fino a 2-3 anni fa sembrava che dovesse esplodere la realtà virtuale. Ha parlato invece molto di realtà aumentata, di augmented reality. Per quanto riguarda il virtuale, il nuovo visore che sarà l'unico prodotto in casa Facebook si chiama Oculus Quest 2, ha il 50% di risoluzione in più, e questo è molto importante rispetto al Quest. Si trova già in prevendita in Italia a 349 euro, è disponibile dal 15 di ottobre. Questo è un visore che non deve essere collegato ad un computer. Facebook però si sta concentrando molto sulla realtà aumentata. Mark Zuckerberg è partito dal momento che stiamo vivendo causa Covid e ha detto alcune parole molto interessanti. What we're missing is this feeling of presence. Con le video chat e le videoconferenze quello che abbiamo perso è la sensazione di presenza, la sensazione di essere vicini ad un'altra persona con tutte le emozioni del caso. So that's what the whole fields of virtual and augmented reality are about. A questo servono la realtà aumentata e la realtà virtuale, cioè darti quel senso di presenza. Delivering that sense of presence. Per sviluppare queste tecnologie, Facebook ha lanciato un progetto che si chiama Aria. E il capo dei Facebook Reality Labs ha detto che dei veri occhiali per la realtà aumentata arriveranno sul mercato solo fra 5 o 10 anni. The goal here is to develop some normal size, nice looking glasses that you can wear all day. Interact with holograms, digital objects and information. L'obiettivo, spiega Zuckerberg, il fondatore di Facebook, è creare un normale occhiale che puoi indossare tutto il giorno per interagire con ologrammi, oggetti digitali, informazioni, ma appunto per queste cose bisognerà attendere qualche anno. A couple of years ago, I started meeting with some of the best eyeglasses makers around the world. And this journey took me to Milan, where I met with the founder of a company called Essilor Luxottica. E poi Zuckerberg ha raccontato quello che gli è successo 2 anni fa. Ho incontrato a Milano Leonardo Del Vecchio, non lo ha citato esplicitamente, ma ha detto il fondatore di Essilor Luxottica, i migliori produttori di occhiali al mondo. They're the best in the world at making glasses. Non abbiamo ancora un prodotto, ma abbiamo creato un team che lavorerà nei prossimi anni e presenterà il primo occhiale a marchio Ray-Ban il prossimo anno. Now, we don't have a product yet to share with you today, but I am excited to share that we have formed a multi-year partnership, starting with building and releasing our first pair of smart glasses next year. Quindi avete capito, il prossimo anno uscirà un primissimo esempio di quello che potrà essere un vero occhiale per la realtà aumentata, che arriverà invece fra 5-10 anni. Quindi probabilmente fra 5-10 anni parleremo e vedremo cose che abbiamo visto nei film, ologrammi, insomma cose che funzionano molto bene. Saluto Carolina Milanesi, collegata con noi dalla Silicon Valley, analista a Creative Strategies. Carolina, bentornata 2024. Grazie Enrico. Noi Carolina ti sentivamo spesso perché avevi il privilegio, essendo in Silicon Valley, di partecipare a molti degli eventi che vengono fatti dalle grandi aziende o nelle loro sede o in sedi limitrofe dal vivo. Oramai siamo passati invece tutto online, quindi essere in Silicon Valley o essere qui è quasi la stessa cosa. Sì, l'ultimo evento reale che ho fatto era stato il Samsung Unpacked a febbraio. E poi da lì abbiamo incominciato a fare tutto virtuale, e sia dal punto di vista di eventi aperti ai consumatori, cioè più per dispositivi che si focalizzano sui consumatori, che quelli a livello di enterprise, se pensi per esempio agli eventi degli sviluppatori che abbiamo avuto, sia quello di Apple che quello di Microsoft. Invece Google ha fatto una scelta di non fare Google I/O. Quindi all'inizio c'era questa dicotomia di facciamo o non facciamo, perché sembrava che la pandemia fosse una cosa di alcuni mesi. Quindi all'inizio, diciamo nel periodo di maggio fino a inizi luglio, è stato abbastanza calmo. E poi quando si è capito che effettivamente questa pandemia rimaneva, e quindi lavorare da casa rimaneva una cosa più lunga, hai visto un'accelerazione proprio degli eventi. Che cosa ti ha colpito? Che cosa dobbiamo ricordarci di questa estate? Te lo chiedo perché noi tra luglio e agosto, come da tradizione, rallentiamo un po' il ritmo in Italia, e nonostante il Covid questo agosto è stato un agosto classico dove un po' tutto si è fermato, quindi non abbiamo seguito moltissimo gli eventi anche digitali e gli annunci di tecnologia. Che cosa secondo te dobbiamo segnarci e ricordarci di questa estate? Guarda, secondo me ci sono, diciamo, dei gruppi di prodotti che sono stati interessanti durante l'estate. Uno, l'attenzione agli smartphone di fascia media, e quindi hai avuto diversi produttori, da Apple con l'iPhone SE a Samsung con la nuova famiglia di prodotti Galaxy A, come l'A51 per esempio. ma anche OnePlus, che con il OnePlus Nord ha fatto una campagna e ha creato un'eccitazione proprio da telefono di fascia alta, quando invece è un telefono veramente di fascia media. E poi hai avuto anche altri produttori come Google con il Pixel 4a, che è stato più una fine estate. Ma se li metti tutti in un discorso, è quest'idea che il telefono comunque, anche se siamo a casa, rimane l'oggetto che, con cui comunichiamo di più in tantissimi modi, non soltanto a livello di voce, ma a livello di social media, messaging e via dicendo. E l'idea che economicamente la gente magari ha un portafoglio più limitato al momento, qua la realtà purtroppo è che tanti hanno perso il lavoro, e se non hanno perso il lavoro magari hanno avuto degli orari ridotti o uno stipendio tagliato, e quindi c'è un discorso economico da tenere in considerazione, ma anche il fatto che la tecnologia è adesso così robusta e così diciamo ben fatta da riuscire a dare un'esperienza veramente buona a un prezzo non da 1000 euro. Certo, questo è sicuramente un tema molto interessante e molto importante. Ci confermi che negli Stati Uniti, in generale, per gli smartphone dei produttori cinesi, quello è un mercato un po' più difficile, a parte Huawei che non si vende, cioè quello è un mercato precluso e vietato a Huawei, ma lì la situazione è un po' diversa rispetto a qua, giusto? Sì, sicuramente non abbiamo gli Oppo e Xiaomi che avete in Europa. L'unico produttore che continua a essere visto in maniera positiva in America è OnePlus, che comunque ha una quota di mercato in America non minuscola. Esatto. Senti, abbiamo rivisto qualche cosa, qualche rispolverata dei foldable, quindi telefoni con il display che si piega. Sì, abbiamo visto verso la fine dell'estate una serie di prodotti nuovi che sono, diciamo, la seconda generazione del Motorola Razr, del Galaxy Fold, Z Fold e del Galaxy Z Flip, ma anche una LG che l'altro ieri è uscita con il device che si chiama LG Wing, che ha un meccanismo molto particolare che veramente lo fa sembrare molto diverso, perché si apre come una T praticamente, ma che ti chiedi anche perché lo facciano. Questo effetto, da una parte parliamo di telefoni meno costosi e dall'altra parliamo di telefoni che sono $2000 per il Fold. C'è stato anche forse quello più famoso, che è un telefono ma non lo chiamano telefono, che è il Surface Duo, che è, non è proprio un foldable, è un dual screen device, quindi ha due schermi fianco a fianco con una cerniera in mezzo. E però questi device invece che costano di più. E la realtà è che anche se c'è la pandemia, questi prodotti erano già nella scaletta, diciamo, dei produttori, no? Un'altra parte della pandemia sono stati i ritardi che abbiamo visto di alcuni prodotti, includendo anche l'iPhone 12 che tutti si aspettavano questa settimana, invece che non abbiamo ancora visto e probabilmente vedremo in ottobre. E il fatto comunque che questi produttori cercano di piazzare questi nuovi prodotti con lo schermo più grande, quindi un po' un ibrido tra telefono e tablet, oppure un ibrido tra, per quelli come il Flip e il Motorola, tra un wearable e un telefono. Quindi è interessante vedere dove la tecnologia va, quanto sia grande questo mercato oggi è un altro discorso. Infatti la domanda è: secondo te hanno una chance per diventare prodotti con un minimo di quota di mercato, o rimarranno una nicchia e di conseguenza anche con un prezzo che non cambierà molto? Guarda, secondo me c'è l'opportunità e è un po', cioè, senza l'opportunità i prezzi non scendono. La cosa più importante che deve essere fatta è riuscire ad avere applicazioni che traggano vantaggio dello schermo più grande. In un certo senso, se vuoi, il telefono come lo Z Flip o il Motorola Razr sono più semplici perché non richiedono molto lavoro dal punto di vista degli sviluppatori, e alla fine quando lo apri è un telefono normale. Però appunto per quello magari è più difficile giustificare il costo solo per essere diverso dagli altri rispetto invece a un Fold o a un Surface Duo, dove effettivamente a livello di produttività riesce a fare di più. Ci vorrà tempo. La cosa importante secondo me è che poi beneficiamo tutti a livello di applicazioni, che magari vediamo anche una risorgenza dei tablet su Android, che fino adesso non è che abbiano fatto molto bene nelle vendite. Sì, esattamente. Senti, lato servizi, che cosa ci è piaciuto? Ma lato servizi abbiamo avuto forse quelli più che la gente si aspettava di più, erano quelli di Apple, che abbiamo avuto prima della pandemia con Apple TV Plus e molta attenzione a Disney Plus, e quindi siamo entrati proprio in questo all'inizio della pandemia con questi servizi. Durante la pandemia abbiamo visto anche dei servizi come Quibi che hanno avuto delle difficoltà perché erano stati creati per un mondo molto mobile che tutto in un momento è sparito, e quindi parlare di snackable content di 10 minuti quando tu sei a casa tutto il giorno e hai a disposizione la televisione, quindi schermi molto più grandi invece del telefono, non ha funzionato molto bene. Più recentemente abbiamo visto Apple proprio questa settimana parlare di Fitness Plus, un altro trend da pandemia, dove diciamo che molti consumatori non vanno in palestra, e quindi l'attenzione a aziende come Peloton, per esempio, con la bicicletta, ma anche il tapirulano, che hanno avuto appunto questa risorgenza, hanno avuto dei problemi a consegnare prodotti, esatto. Quindi queste sono state un pochino le cose più interessanti, e con Apple questa settimana abbiamo visto Apple One, che è un bundle, e quindi l'opportunità per chi sottoscrive a Apple Arcade, a Apple Music e a Apple TV Plus di pagare un pagamento unico per questi servizi. E poi in alcuni paesi, non dappertutto perché mancano alcuni servizi come Apple News, anche l'opportunità di avere tutto in un pagamento e risparmiare pagare quasi la metà di quello che paghi adesso pagando i singoli servizi. Vogliamo parlare del 5G, perché negli Stati Uniti è più un tema popolare rispetto a qui. Qua diciamo che dopo i primi annunci dei primi servizi partiti, ma un po' a macchia di leopardo in qualche città, si sta un po' aspettando, perché le frequenze verranno, diciamo, messe a disposizione fra un paio di anni, quindi diciamo che il boom del 5G lo attendiamo ancora. A livello globale, a livello degli Stati Uniti, come stanno le cose? Sì, vedi, noi siamo nella stessa situazione vostra, che cioè a livello di copertura di rete ci vorranno un paio di anni, però ne parlano tutti, perché gli operatori comunque continuano a parlarne per cercare di avere i consumatori sottoscrivere a nuovi servizi, pagare di più e prendere nuovi telefoni. Quello che è stato interessante durante l'estate è che in questo ciclo di prodotti più a buon mercato che abbiamo visto dei produttori come Samsung, ma anche per esempio TCL, diventare molto aggressivi con l'integrazione del 5G, e quindi 5G che adesso grazie ai chipset della Qualcomm è sceso, non è soltanto una feature dei prezzi più alti e dei telefoni flagship, ma è anche proprio nel prodotto di fascia media. Motorola è un'altra che come brand è stata molto aggressiva nel aprirsi a 5G, una cosa che è nuova rispetto per esempio a quello che avevamo fatto con LTI, dove per parecchi mesi era relegato soltanto al prodotto di alta, il primo prodotto, il prodotto hero, eroe del portafoglio. Certo, e comunque vedremo quello che presenterà Apple, perché Apple ha sempre un atteggiamento molto pragmatico. Se Apple non presenterà un iPhone 5G, quella è la conferma che il 5G, cosa che io presumo sia, e comunque sono convinto di questo, 5G è un tema del 2021-22, però vedremo. No, senz'altro sono d'accordo con te per il 21-22, però penso proprio che Apple abbia un iPhone 5G. Se fanno tutti i prodotti nuovi, se tutta la fascia del 12, dell'iPhone 12 è 5G o no, questo secondo me rimane un po'... non si sa, perché ovviamente ci sono molti paesi che non hanno ancora neanche incominciato con la copertura di rete, quindi bisognerà vedere. Grazie a Carolina Milanesi per essere stata con noi come sempre, a presto. A presto, arrivederci. Tra poco parleremo di riconoscimento vocale e parleremo anche di un satellite made in Italy che tra qualche anno andrà ad osservare un asteroide, lo spiegheremo tra poco. La notizia più importante dell'anno nell'industria IT è l'acquisizione della britannica ARM da parte di Nvidia, che pagherà 40 miliardi di dollari alla giapponese SoftBank, parte in cash e parte in azioni. È una delle più grandi operazioni nella storia della tecnologia, ma al di là degli aspetti finanziari, che sono molto importanti, insomma lasciano a bocca aperta da un certo punto di vista, questa operazione, se si farà, perché non è detto che le autorità dei vari paesi diano il proprio via libera, comunque se si farà avrà dei risvolti industriali e geopolitici molto profondi. Ricordiamo che ARM è una società che sviluppa un'architettura di processore, quindi progetta processori molto apprezzata per l'efficienza nei consumi energetici, quindi questi processori consumano molto poco e questi progetti vengono concessi in licenza a grandi nomi che conosciamo, Apple, Samsung, Huawei, Qualcomm, insomma tantissime aziende che poi si fanno e si producono il proprio processore. In quasi tutti gli smartphone c'è un processore con architettura ARM, ma questi chip verranno usati sempre di più anche nei computer, nei data center, nelle automobili, in altri apparecchi della Internet of Things, nella smart home, a livello industriale, negli armamenti, insomma c'è grande spazio per il futuro nei sistemi di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Che cosa se ne fa Nvidia dei processori ARM? Non poteva usarli, cioè prenderli come fa già oggi, in licenza e progettare proprio i processori? Beh, allora, Nvidia è finora conosciuta e nota per le GPU, Graphic Processing Unit, che si occupano della grafica, ma oggi l'industria vuole maggiore integrazione, quindi piattaforme con tutto a bordo, cioè la CPU, il classico processore, la GPU e il networking, quindi tutte le tecnologie che servono per le comunicazioni, la connettività. Oggi Nvidia può a pieno titolo dire di avere una piattaforma così come ce l'hanno Intel e AMD, quindi con questa acquisizione Nvidia si doterebbe di una parte di tecnologia per realizzare questa integrazione e quindi diventare uno dei tre grandi nomi. Dal punto di vista industriale questo crea una polarizzazione a tre, con tutto quello che questo comporta: meno concorrenza, meno scelta per il consumatore. Va detto, perché alcuni potrebbero dire, ma Apple, effettivamente c'è un quarto player che si è un po' tirato fuori da questi giochi, perché ha detto, noi ci facciamo tutto in casa, progettiamo tutto in casa, in questo modo controlliamo la nostra piattaforma e soprattutto ci prendiamo tutti i margini, perché ricorderete, sapete che questa è un'industria con margini abbastanza in sofferenza, e quindi quello che fa Apple è assolutamente corretto e giusto. Diciamo che gli altri sono un po' pirla, però il mercato è sempre molto complesso, quindi un conto è dirlo davanti a un microfono, poi un conto è essere dentro al mercato. Comunque questo in sintesi quello che riguarda l'aspetto industriale del mercato. C'è poi un aspetto estremamente importante, che è quello geopolitico. Allora, fate caso che ARM passerebbe dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, che come ogni nazione controlla e autorizza l'uso di tecnologia made in USA. Anche noi in Italia abbiamo un controllo sulle esportazioni di tecnologia, ad esempio abbiamo aziende che producono, non arrivo a dire gli armamenti, ma che producono, che ne so, captatori informatici. Quel software è un software che deve essere autorizzato per l'esportazione, non è che tu puoi vendere a certi paesi tranquillamente. Ecco, gli Stati Uniti, attraverso il Dipartimento del Commercio, autorizzano l'uso della tecnologia, e questa è una leva competitiva per continuare ad essere leader nel mondo. A Bruxelles sono consapevoli di questo, perché adesso diciamo che abbiamo dei buoni rapporti con gli Stati Uniti, ma nell'ambito di un più vasto piano per creare, per cercare di riguadagnare almeno una parte della sovranità tecnologica, la Commissione europea ha lanciato la European Processor Initiative, un consorzio a guida franco-tedesca per lo sviluppo di un processore europeo basato su architettura open source RISC-V. I primi risultati dovrebbero arrivare nel giro di 3 anni, grosso modo. Le probabilità che non sia un buco nell'acqua aumentano se questa operazione Nvidia ARM andrà in porto, perché ovviamente un conto è avere un'azienda britannica che concede in licenza e quindi è sottoposta all'autorizzazione dei britannici, anche se non sono più nell'Unione Europea, ma questo insomma sarebbe poco importante. Un altro conto è che sia americana, anche perché alcuni di questi processori vanno ad esempio nei sistemi d'arma, e noi siamo grandi produttori, noi non solo italiani, europei in generale. Insomma, la Commissione Europea dice: dobbiamo dotarci di tecnologia. È un po' la logica che ha portato alla nascita di Airbus o Galileo: non dipendere da altri per tecnologie considerate strategiche. Quindi una partita molto complessa, molto interessante. Magari torneremo a parlare anche di questo tema. Siete all'ascolto di 2024, questo è Radio 24. Adesso abbiamo una breve pausa, riprendiamo tra poco. Bentornati, riprendiamo questa puntata. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini. Trovate una estesa versione podcast, il nostro super podcast, online sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione per smartphone, oppure potete utilizzare anche la app delle radio italiane, ovvero Radio Player, Radio Player Italia, con tutte le radio oltre a Radio 24. Trovate ovviamente 2024 e tutti i podcast di Radio 24 nelle principali piattaforme di audio on demand: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le altre. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Adesso proseguiamo parlando di tecnologia di riconoscimento vocale. All'inizio dell'estate il Parlamento europeo, o meglio a metà dell'estate diciamo così, il Parlamento europeo ci ha informato di avere selezionato 3 consorzi per la fornitura di tecnologie di riconoscimento vocale e traduzione automatica. Ci sarà una fase di test di queste tecnologie, poi verrà scelta quella più idonea e confermata per 2 anni. Uno dei consorzi è Made in Italy, completamente Made in Italy, è formato da Pervoice, Translated e dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento. Pervoice è nata proprio nel 2007 come spin-off della Fondazione Bruno Kessler, è ora una società controllata da Almawave, che fa parte del gruppo Almaviva. Paolo Paravento è l'amministratore delegato di Pervoice, benvenuto a 2024. Grazie. Che tipo di servizio fornirete assieme alle altre aziende italiane? Queste 3 aziende italiane forniranno una piattaforma di interpretariato in tempo reale in 24 lingue. Mediante i software prodotti dalle 3 aziende consentiremo al Parlamento europeo la traduzione in 24 lingue degli interventi dei parlamentari. C'è una parte di intervento umano o è completamente automatizzato? Cioè sono solo le macchine che riconoscono le voci e le traducono? Allora, c'è una supervisione. Questa supervisione consente di effettuare un controllo di qualità dell'output prodotto dai sistemi al fine di consentire di ottenere un servizio eccellente per gli utenti. Quando parliamo di queste tecnologie, in particolare, adesso stiamo parlando di un servizio che utilizza un set di tecnologie, riconoscimento della voce, capacità di capire che cosa viene detto e poi la parte di traduzione in tante lingue, e anche questa è ovviamente una difficoltà. Di che tipo di tecnologie stiamo parlando e come funzionano queste tecnologie? Allora, quella che per voi si mette a disposizione del consorzio è una tecnologia di riconoscimento vocale. Quindi noi andiamo a digitalizzare la voce, trasformiamo la voce in testo in oltre 30 lingue e mettiamo a disposizione questo testo degli altri software sviluppati dai nostri partner che ne completano il servizio introducendo tutte quelle funzioni che poi portano alla traduzione e alla visualizzazione del testo tradotto per gli utenti. Quando noi proviamo un sistema di riconoscimento vocale sul nostro telefonino, ad esempio, perché forse è uno degli utilizzi più frequenti di chi ci sta ascoltando, ci accorgiamo che effettivamente negli ultimi anni questi sistemi sono migliorati moltissimo, ma non sono ancora perfetti. Diciamo che un umano fortunatamente capisce meglio e capisce tutto, anche perché riesce poi a interpretare magari cose che non capisce benissimo, riesce a intuire cose che le macchine non sono in grado di fare. Ecco, a che punto siamo arrivati con queste tecnologie? Questa è una sfida che noi stiamo affrontando da anni, nel superare i limiti, della tecnologia attuale, che, come hai ben indicato, sono rappresentativi in termini di rumori di fondo, piuttosto che, presenza di musica nel parlato o di sovrapposizione del parlato. Però negli ultimi 10 anni questi problemi sono stati approcciati con dei nuovi strumenti, delle nuove tecnologie che hanno un po' rivoluzionato il mondo dell'intelligenza artificiale, che sono le reti neurali. Grazie alle reti neurali noi oggi siamo in grado di, utilizzando i big data, di modellare dei sistemi, che consentono di approcciare questo tipo di problemi e di superarli in molti casi. Faccio l'esempio dei processi di business dove è necessario che il riconoscimento vocale abbia un certo livello di qualità ottimale per quel processo di business. Grazie alle reti neurali riusciamo a implementare dei sistemi che abbiano un'efficacia ed una garanzia di livelli di servizio certi. Ovviamente il problema dei limiti tecnologici, come indicato prima, non è risolto, ancora non abbiamo la soluzione definitiva, però grazie a queste nuove tecnologie, a queste nuove innovazioni, siamo confidenti che nel giro di pochi anni riusciremo ad ottenere dei sistemi di riconoscimento che ci permettano di interagire con le macchine, un po' come al 9000, chi si ricorda il film Odissea 2001 nello spazio di Kubrick, avere un'interfaccia uomo-macchina. Questo è un po' il sogno della comunità scientifica e il sogno di chi, come noi fa ricerca in quest'ambito. Dove, in quali condizioni non riescono a capire le macchine? Allora, i problemi principali sono il riconoscimento vocale negli ambienti aperti, dove lì ci sono fenomeni di eco, riverbero, piuttosto che rumori di fondo che degradano il segnale audio che viene acquisito dai vari microfoni. E questo è forse il problema più grosso. Poi c'è anche, diciamo, l'innovazione tecnologica deve essere portata sui microfoni stessi, perché i sistemi di acquisizione hanno anche loro dei limiti, che sono dei limiti proprio tecnologici. Quindi i nostri sistemi sono sistemi dove un audio di buona qualità produce un output di buona qualità, un audio di cattiva qualità produce output di cattiva qualità. Certo, poi immagino che ci sia anche il problema delle persone che si parlano, che parlano assieme allo stesso momento. So che voi, ad esempio, fornite tecnologia ai call center, in quel caso se io parlo mentre sta parlando la persona che mi risponde al call center, forse i sistemi non capiscono bene. Sì, diciamo che questo è un problema che si sta approcciando in maniera proprio strutturata. Ci sono centri di ricerca mondiali che fanno delle ricerche per risolvere un caso specifico. Faccio una battuta, i cosiddetti cocktail party, dove tu hai tante persone che parlano nello stesso ambiente e questo problema è forse il problema di più difficile risoluzione per il mondo del riconoscimento vocale. Però lì ci viene incontro sia l'intelligenza artificiale che le nuove tecniche di riconoscimento delle immagini che permettono di unire il riconoscimento delle immagini, quindi il riconoscimento della persona, andando a riconoscere il labiale che si muove con l'audio che viene acquisito, magari con dei microfoni direzionali, e a quel punto noi riusciamo ad isolare il parlatore con l'audio acquisito e quindi selezionare l'audio relativo a quel singolo parlatore. Questa è la frontiera della ricerca e dove ci si sta muovendo con dei risultati veramente incoraggianti. Quindi sono convinto che anche questi tipi di problemi potranno essere superati non solo con il riconoscimento vocale, ma con l'interazione con altri tipi di tecnologie. Nei call center, se non sbaglio, si cerca di evitare questo problema utilizzando più canali? Allora, nel call center si utilizzano due tecniche in particolare. La prima è quella della separazione dell'operatore con il cliente mediante dei sistemi di registrazione stereo. Lì tu hai due tipi di canali e quindi su un canale fai viaggiare il segnale dell'operatore e dall'altro fai viaggiare il segnale del cliente. Quindi riesci a mantenere separata la conversazione con degli ottimi livelli di accuratezza e trascrizione. Nel caso in cui invece i registratori abbiano caratteristiche di tipo mono e quindi i segnali sono sovrapposti, allora a quel punto entrano in campo degli algoritmi di machine learning chiamati diarization, che riescono attraverso una modellizzazione della conversazione a separare i due interlocutori. Lì anche la ricerca sta facendo dei passi in avanti, lavorando anche su tutta una serie di parametri, quali per esempio il timbro della voce o il riconoscimento, diciamo, del timbro del parlatore per consentire una sempre maggiore accurata separazione fra operatore e cliente. Questo a livello di ricerca, cioè questi sistemi no, non sono ancora implementati. Allora, la diarization è implementata, Per esiste, diarization ma la intendiamo che forniamo. cosa? Separazione dei parlatori, Ok. sono degli algoritmi di machine learning che su base statistica riescono con un'approssimazione del 90% a separare parlatore e operatore. Andare ad introdurre l'analisi di nuove feature come può essere il timbro vocale, che ti dicevo prima, per l'identificazione di una sorta di fingerprint vocale, è l'ultima frontiera che è inserita in sistemi di speech analytics, così vengono chiamati questi tipi di piattaforme, consentono una separazione quasi al 100% tra operatore e parlatore. Però siamo già avanti su questi tipi di sistemi con piattaforme proprio in esercizio sui clienti. Ok, normalmente questi sistemi dove vengono utilizzati? In quali contesti? Abbiamo citato i call center, abbiamo citato il Parlamento europeo, in quali altri ambiti? Gli ambiti sono innumerevoli, sia quelli presenti che quelli futuri. Attualmente, per esempio, noi forniamo tecnologia per il monitoraggio radio-televisivo H24 in near real time, quindi con 5 minuti di ritardo, per il monitoraggio di tutte le televisioni e tutte le radio nel mondo. Quindi ci potrebbe essere qualche nostro fornitore che in questo momento sta monitorando anche la nostra trasmissione e la trascriverà e la renderà accessibile ovviamente avendone i diritti, ai suoi clienti per sapere, per esempio, quando Enrico stava trattando il tema del riconoscimento vocale piuttosto il tema del riconoscimento delle immagini. E oggi questi tipi di sistemi che prima venivano chiamati rassegne stampa e venivano fatti manuali, oggi sono fatti tutti con sistemi di riconoscimento vocale, perché noi trasformiamo la voce digitalizzandola in testo e ricercando nel testo noi manteniamo sincronizzato il testo con la voce, quindi possiamo trovare esattamente il secondo nel quale Enrico sta parlando di riconoscimento vocale. Questo è uno degli ambiti. Oggi noi monitoriamo circa 2200 televisioni nel mondo in 26 lingue, televisioni e radio, dal Canada fino all'Australia. E altre cose che si possono fare con riconoscimento vocale, per esempio, è la trascrizione dei processi. Il processo penale deve essere verbalizzato e quindi, utilizzando i sistemi di riconoscimento vocale, possiamo trascrivere i processi penali piuttosto che i consigli d'amministrazione, piuttosto che le assemblee in generale, o implementare queste tecnologie per il sociale. Noi siamo molto impegnati sul tema dell'accessibilità universale delle informazioni e abbiamo delle soluzioni in campo specifiche per i sordi e integriamo i servizi automatici con i servizi umani. Faccio un esempio: al Comune di Roma, l'Assemblea Capitolina, noi sottotitoliamo in tempo reale gli interventi dell'Assemblea Capitolina e li integriamo col servizio LIS per consentire a tutte le persone sorde, ma anche agli stranieri, quindi non è rivolto solo ai sordi, la massima accessibilità ad un evento cittadino che rappresenta il cuore della vita del Comune stesso. E questi sono solo alcuni ambiti. E poi c'è il futuro. Il futuro, come ti raccontavo io, il tema è la creazione di un'interfaccia uomo-macchina che permetta di interagire sempre di più con i cosiddetti bot. C'è una ricerca che dice che entro il 2023 il 35% dei lavoratori avrà cominciato a lavorare con i bot o altre forme di intelligenza artificiale. E questi signori si interfacceranno, ci interfacceremo con sistemi di intelligenza artificiale e magari lo faremo utilizzando invece la tastiera, utilizzando la voce per fare le nostre operazioni. Ma senza andare troppo oltre, oggi già sono in realtà le integrazioni del riconoscimento vocale con sensoristica, con il cosiddetto mondo dell'internet delle cose, dell'IoT. I virtual assistant, voi li vedete in casa come Google Home, Alexa e quant'altro, sono degli assistenti virtuali personali, però questi assistenti virtuali sono anche presenti nel mondo industriale. Faccio un esempio: la prenotazione delle visite ospedaliere. Oggi, a valle del Covid, ci sono state cancellate milioni di visite già prenotate presso i centri della pubblica sanità, del Servizio Sanitario Nazionale. Noi, attraverso degli agenti virtuali, possiamo andare a gestire gli enormi volumi che ci saranno una volta finito la pandemia Covid per riprenotare queste visite, cosa che un contact center fatto solo di umani non potrebbe fare. Uno dei vantaggi del riconoscimento vocale e della trasposizione, in termini tecnici si dice speech to text, quindi la trasposizione del parlato in testo, è che poi il testo è facilmente ricercabile, cioè se io voglio cercare una parola chiave nel testo è molto facile. Ecco, dato una registrazione, che ne so, un file audio di un'ora, le tecnologie permettono oggi di fare ricerca all'interno dell'audio, cioè è possibile trovare la parola casa all'interno di un parlato appunto di un'ora? Allora, no, devi per forza trascriverlo, perché il testo, una volta trascritto, si porta dietro un iperlink, un timestamp, che mantiene sincronizzata la parola con il secondo esatto nel quale viene enunciata quella parola. Quindi tu, avendo una trascrizione sincronizzata con l'audio o anche con il video, individuando la parola, tu riesci a individuare esattamente il momento nel quale si enuncia quella parola e quando c'è quel tipo di fotogramma. Sì, sì, questo mi è chiaro, però appunto le tecnologie non sono ancora in grado di capire nativamente l'audio. No, assolutamente, perché quello è un dato non strutturato che ha bisogno di essere digitalizzato e non ci sono oggi algoritmi che possono fare questi tipi di lavori. È necessario passare sempre prima per il testo. Ok. Se uno va su internet, trova facilmente servizi di traduzione, ad esempio, cioè più difficile trovare sistemi per far riconoscere il parlato. Per quale motivo? Per una questione di specializzazione del dominio linguistico, oggi sul mercato non esiste un sistema di riconoscimento vocale generalista. Noi oggi stiamo avendo una discussione abbastanza tecnica, però magari se tu intervistassi un parlamentare o piuttosto un avvocato, ti accorgeresti che c'è un dominio del linguaggio che è differente da un interlocutore all'altro. Ecco, i sistemi di riconoscimento vocale funzionano nello stesso modo. E quelli che, per i quali viene richiesta un'accuratezza elevata, parliamo del 90-95% di accuratezza, sono quelli che operano in un dominio linguistico ben specifico. Quindi tu su internet non troverai mai un sistema di riconoscimento vocale specifico per il mondo giuridico piuttosto che per quello medicale, ma hai bisogno di sistemi di riconoscimento vocale definiti enterprise che hanno la caratteristica di poter customizzare i propri modelli del linguaggio su quel tipo di processo di business. Bene, grazie a Paolo Paravento per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie, Enrico, buon lavoro a te. Quando parlavamo prima di integrazione di CPU, GPU e networking, in gergo tecnico si chiama SoC, System on Chip. Giusto per completezza dell'informazione. Adesso parliamo di mini satelliti. Sapete che questa è una, ormai possiamo non più dire nuova, comunque negli ultimi anni c'è stata una crescita molto importante di questo settore. In questo caso parliamo di un mini satellite che partirà a scopo scientifico, che partirà nel 2024 e nel 2026 andrà ad ispezionare un asteroide che 4 anni prima, quindi siamo nel 2022, verrà colpito da un proiettile lanciato dalla NASA per deviarne la rotta. Quindi gli americani colpiscono questo asteroide che ruota assieme a un altro asteroide, è un sistema binario di asteroidi, lo colpisce per deviarne la rotta e qualche anno dopo gli europei vanno a vedere che cosa è successo. L'Agenzia Spaziale Europea ha firmato questa settimana un contratto da 130 milioni con la tedesca OHB. OHB è uno dei principali produttori di satelliti al mondo, che guida un consorzio che costruirà una sonda, gli strumenti scientifici e anche 2 CubeSat. I CubeSat sono un particolare tipo di mini satelliti che andranno appunto ad ispezionare questo asteroide. Uno di questi mini satelliti verrà realizzato dall'italiana Taivac. Saluto Marco Villa, che è già stato nostro ospite proprio per parlare di questi temi, fondatore e amministratore delegato di Taivac. Bentornato, grazie di essere con noi. Grazie. Allora Marco, quale sarà il vostro ruolo all'interno di questa missione denominata ERA, la missione dell'Agenzia Spaziale Europea? La missione ERA appunto fa parte di una missione più grande che si chiama AIDA, dove c'è una componente americana e una componente europea. All'interno della componente europea il nostro ruolo è di disegnare ed eseguire, quindi costruire, monitorare, testare e poi alla fine operare questo piccolo satellite che verrà lanciato all'interno del satellite madre, fatto da uno dei Prime OHB dell'Agenzia Spaziale Europea, poi liberato e quindi lasciato andare indipendentemente per portare a termine e condurre la sua missione, che è quella di osservare e registrare e prendere dati scientifici sulla composizione, alterazione e stato della superficie di questo asteroide, delle polveri della superficie dell'asteroide, dopo, a seguito dell'impatto subito anni prima da un altro satellite americano. Il ruolo di un... cioè la stessa cosa non si poteva fare con un classico satellite. Qual è il vantaggio di utilizzare un satellite piccolo? Intanto piccolo quanto? Parliamo di un satellite che sarà intorno ai 15 kg, 20 kg, della dimensione di a me piace usare il termine, una scatola di scarponi da sci, quindi un po' più grande delle normali scatole, quindi piccolo, compatto, legato a tecnologie di miniaturizzazione, quindi molto molto in sintonia con altri tipi di tecnologia che si usano al giorno d'oggi per altre applicazioni che sulla Terra, il perché queste tipo di missioni possono essere fatte quasi esclusivamente con questi satelliti è per via della capacità, se vuoi, di agilità di arrivare anche molto più vicino e quindi osservare molto più da vicino, mantenendo un livello di rischio più basso rispetto a quello se hai una cosa molto grande che cerca di manovrare attorno a un altro oggetto. Producete tutto in Italia? Tutto fatto in Italia, con qua a Torino la nostra sede, dove c'è tutta la tecnologia, gli ingegneri per mettere assieme. Alcuni dei payload sono fatti in Italia, altri in altre parti d'Europa, quindi collaborazione vera europea, e la nostra filiera è tutta basata su diverse regioni qui in Italia, quindi da Veneto a Piemonte fino a Marche, eccetera. Quindi da questo punto di vista siamo ancora una nazione, lo spazio rappresenta anche in termini di posti di lavoro, in termini di prodotto interno lordo, insomma una fetta importante della nostra industria, della nostra manifattura, ma anche in questa nuova frontiera dei piccoli satelliti che alcuni chiamano mini satelliti, micro satelliti, CubeSat, siamo, diciamo, la nostra. L'Italia dice sempre, noi diciamo sempre la nostra, quasi in qualsiasi situazione, questa non è da meno. È da tanti anni che l'Italia è all'avanguardia nel mondo spazio, non è una novità, è da tanti anni che l'Italia ha avuto la possibilità di cambiare marcia e di essere all'avanguardia anche in questo nuovo, ormai però stabilito, trend attuale e futuro dei satelliti più piccoli. Ci piace pensare che siamo stati uno dei punti fermi per agevolare, diciamo, questo cambiamento, e sicuramente sta succedendo e lo vediamo giorno dopo giorno nella nostra industria. Voi vi definite ancora startup? Tyvac è ancora una startup? È una bella domanda. Siamo una startup da alcuni punti di vista, perché diciamo, attorno al concetto di startup c'è questo concetto di snellezza, di agilità, di capacità di adattamento. Sicuramente manteniamo quelle caratteristiche, ma nello stesso contesto siamo una ditta a livello europeo e a livello ovviamente anche italiano ben stabilita, cioè i clienti vengono da noi perché sanno che ottengono i risultati, non è che ci proviamo così. Quindi diciamo, c'è questo nuovo termine, giusto, da scale up, sì. No? Siamo a quella... fase in cui stiamo crescendo ancorati a risultati. Certo. Senti, tornando al più vasto tema dei piccoli satelliti, effettivamente quando parlo con persone che si occupano di spazio o seguo le notizie, siti specializzati in spazio, questo appare come una nuova grande rivoluzione. Quanto è importante, rilevante, e soprattutto che tipo di nuovi servizi? Noi sappiamo che quando si investe nello spazio ci sono sempre delle ricadute sia in termini di servizi ma anche in termini di tecnologie nella vita di tutti noi, insomma nelle cose che poi utilizziamo a terra. Ecco, in questo caso? In questo caso non è diverso da tutti gli altri casi. Ormai ci sono esempi ben ancorati, che sono anche qui da un po' di anni, che dipendono direttamente dall'utilizzo di questi piccoli satelliti, che sia l'osservazione della Terra che continua ad evolversi da quello che erano facciamo qualche foto a rilevazione di diversi tipi di sensori, che siano rilevazioni per previsioni meteorologiche fatte con molta più frequenza e dappertutto nel mondo nello stesso momento, quindi ti danno questa dimensione spazio e temporale che era impossibile prima, che siano altre attività di Internet of Things, quindi connessione di sensori in giro per zone rurali o di monitoraggio, sono tutte cose che sono ben consolidate. Ma la cosa più importante, Enrico, è sempre questa, è come c'è stata l'evoluzione fino agli nostri smartphone, eccetera, quando non si sapeva tutti gli utilizzi ai tempi, quando si sapeva c'era l'opportunità, la potenzialità, e dove siamo noi adesso con questi piccoli satelliti. Possiamo pensare delle soluzioni, ma la cosa bella è ispirare anche queste nuove generazioni, dargli questo oggetto, dargli questa possibilità e vedere poi dove la portano. Una delle cose che si dice quando si parla di piccoli satelliti è che l'accesso allo spazio è sempre più facile, ovviamente non per l'uomo della strada, ma forse per aziende. Allora, quanto questo è vero, quindi quanto poi facile è l'accesso allo spazio e soprattutto per farci che cosa? Facciamo degli esempi. L'accesso allo spazio è più semplice, o meglio, ci sono più opportunità proprio dalla parte, dal punto di vista del trasporto. Ci sono più opportunità di raggiungere le orbite per eseguire il tuo lavoro. Accesso allo spazio dal punto di vista eseguire, quindi creare qualcosa che possa poi funzionare nel mondo, nello spazio, quello non diventerà mai più semplice, poi diventa più semplice dal punto di vista dei numeri, nel senso puoi farne di più, quindi limitare un po' i tuoi rischi, ma c'è sempre una complessità. Ma la cosa bella è abbiamo nuove tecnologie, nuove conoscenze per facilitare, come piace usare il termine, democratizzare questo accesso e questo utilizzo. Un po' di esempi te li ho fatti a livello di applicazioni, ci sono tanti altri monitoraggi e tante altre rivoluzioni in corso in questo momento, anche nel contesto per esempio delle telecomunicazioni, in cui si usavano satelliti grandi per telecomunicazioni, ci volevano magari 8 anni per farli, con previsioni future di altri 15. Adesso con le piccole piattaforme per telecomunicazioni si parla di costruirli in 2 e utilizzo fino ai 7-8, quindi molto più dinamico e reattivo rispetto ai bisogni della comunità, ai bisogni della popolazione. A proposito di democratizzazione, i costi, adesso non voglio che tu ci racconti il listino prezzi dei mini satelliti, però di quanto si sono ridotti rispetto ai grandi satelliti di un tempo che costavano milioni di dollari? A parità di applicazione, cioè se io guardo negli anni 70, anni 80, anni 90, quanto costava fare un satellite per una specifica applicazione, monitoraggio del temperature nell'atmosfera, non lo so, e quanto costava ai tempi e quanto invece costa oggi è 1 o 2 ordini di grandezza in meno. Quindi questo è veramente una democratizzazione, molte più persone possono permetterselo. Quindi parliamo di centinaia di migliaia di dollari o decine di migliaia? Sì, no, si va dai centinaia di migliaia di euro o dollari per diciamo, le versioni base, quindi diciamo un grande SUV o un grande macchina per le versioni veramente quelle più basilari, che sono ancora a livello di ricerca, magari di università, fino a oggetti che sono 1, 2 o 3 milioni di euro per cose più di routine, ma ci sono missioni che valgono molto di più di quello, fino ai 10, 15 e più milioni per missione a questo punto di una rilevanza notevole. Sì, beh, diciamo che nel limite superiore non c'è fine. Mi interessava capire quanto, perché so che ci sono anche state delle scuole che hanno mandato dei CubeSat nello spazio. Assolutamente, io sono stato molto fortunato di essere tra le prime 10 scuole al mondo nel lontano 2002 a far costruire questi piccoli satelliti, proprio all'inizio di questa rivoluzione, di questa evoluzione. Adesso ci sono migliaia di scuole, sia università, ma io faccio anche da mentore a delle scuole superiori che stanno costruendo i loro piccoli satelliti. Grazie Marco Villa per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie a te. Beh, se volessimo riprendere una vecchia sigla di cartoni animati della Warner Bros., That's All Folks, è tutto ragazzi, così ci diamo tutti dei ragazzi, io spero e immagino che tra gli ascoltatori di 2024 ci siano anche dei ragazzi. Anzi, se avete meno di 30 anni e siete ascoltatori di 2024, scrivetemi. Spero di ricevere molte email. 2024 è radio24.it oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Ve l'ho consigliato già durante la puntata, comunque vi ribadisco di vedere su Netflix The Social Dilemma, un documentario sui social network molto, molto interessante, perché raccontato dai protagonisti che erano all'interno delle aziende e sono usciti dalle grandi aziende che hanno creato i social network americani. Molto interessante. Quindi se siete utenti di Netflix, nessun problema. Se non lo siete, sappiate che se non lo siete mai stati, c'è un mese gratuito, o comunque insomma sono 10 euro, cioè un piccolo investimento per vedere un documentario. Certo, uno dice vabbè, spendo 10 euro per vedere un documentario, ma poi vi guardate anche qualcos'altro e poi se non volete continuare però devo dire che merita, quindi magari appunto 10 euro poi ve lo fate guardare anche qualche altro amico, gli date l'account per entrare dentro a Netflix. Grazie come sempre per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana, se volete in onda la radio dalle 22 alle 23, venerdì sera 13:10, in replica la domenica, oppure qui in versione super podcast. Appuntamento tra 7 giorni. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su Aruba.it.